l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, sono 7 minuti dopo le 12 in diretta, questa è Radio 24, il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa delle persone, l'Europa delle possibilità, delle opportunità, oggi in particolare anche l'Europa della cultura. Euronetplus.eu, il portale del network al quale apparteniamo, poi le coordinate social, chiocciola Euronetplus R24 oppure chiocciola Federico Taddia su Twitter e Facebook, trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Come ogni settimana, tante voci, ma oggi anche tanta musica, musica live, qui dagli studi di Radio 24. Santi che pagano al mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande, e quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erbe, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo, amore, amore do, quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. Meno male che briganti come me qui non ce n'è. Ah, ah. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io. Michele Fenati oggi ospite qui all'Altra Europa. Ciao Michele, benvenuto. Grazie di avermi invitato. Insieme a Gabriele Zanchini, Matteo Penazzi, Antonio Cortesi, i poeti della canzone italiana, un progetto di cui andremo a parlare, un progetto importante, un progetto perché è stato scelto per rappresentare l'Italia, Breslavia, capitale europea della cultura 2016, in questa settimana della lingua italiana nel mondo, ma non solo Breslavia, un tour europeo, tutto oggi che continuo a dire tour operator invece che europeo, un tour europeo che andremo a scoprire insieme. Voi venite dalla Romagna, è una puntata molto romagnola nella sua partenza, perché il prossimo ospite viene proprio da lì, ha vinto un premio molto importante un paio di giorni fa, un riconoscimento europeo di cui credo sia molto fiera. Diamo il benvenuto a Lisa Paganelli. Ciao Lisa. Ciao, grazie. Lisa, grazie Paganelli, veterinaria, titolare dell'azienda agricola biologica Seggio, che ha costituito a Civitella di Romagna, quindi siamo in provincia di Forlì Cesena, ha vinto il premio europeo per l'innovazione agricola. Lisa, cos'hai combinato? Ma in realtà la mia è un'azienda agricola di famiglia che seguo da qualche anno, da quando ho deciso di abbandonare la libera professione. E da veterinaria ho deciso di diventare imprenditrice agricola e semplicemente ho apportato un nuovo metodo di agricoltura che si chiama agricoltura simbiotica grazie all'utilizzo di micorrize, che sono un complesso microbico di batteri, funghi e lieviti che insieme agiscono sulle radici delle piante, rafforzando la pianta stessa ma modificandone anche le qualità organolettiche. Quindi insomma, tanto lavoro, come sempre, una bellissima intuizione dietro che ti ha portato a vincere questo premio assegnato dalla Commissione europea in collaborazione col COPACOGECA, che è l'Associazione delle Organizzazioni Agricole e Cooperative dell'Unione Europea. Il premio l'hai ricevuto al Parlamento europeo. Ti sei emozionata? Mamma mia, sì. Anche perché era totalmente inaspettato. e pensavo che il premio venisse assegnato a un'altra candidata e quindi ero abbastanza pietrificata. Qual è la cosa che ha colpito, come pensi, del tuo lavoro? Sì, esatto. Cioè, hanno deciso di premiare questa cosa. Innanzitutto vorrei sottolineare il fatto che il mio non è un lavoro individuale, ma è stato un lavoro di gruppo. Cioè, il premio è stato dato principalmente per l'aspetto sociale e collettivo che ha questo progetto. Infatti io non sono sola in Italia, ma ci sono altre realtà. Insieme abbiamo deciso di sviluppare questo metodo di agricoltura. Ma nel mio territorio questo appoggio che è stato dato sia dall'associazione di categoria che rappresento, ma anche dal sindaco e da altre realtà, ha fatto sì che si è modificato l'aspetto sociale, perché gli agricoltori adesso lavorano per la collettività, le mense scolastiche hanno chiesto di avere prodotti locali, prodotti fatti da un'agricoltura sana, e quindi tutto il paese si è modificato in funzione di questo nuovo metodo di agricoltura. Quindi è stata la collettività stessa a cambiare punto di vista. www.biovalbidente.it per conoscere la tua azienda e le attività che promuovete. Il fatto di essere donna è stato un valore aggiunto ulteriore? Sì, perché la comunità europea con questo premio ha voluto premiare il ruolo della donna in zone di sviluppo, cioè zone agricole svantaggiate e non zone sviluppate che hanno tutte le comodità. E quindi volevano mettere i riflettori sul ruolo della donna in agricoltura, anche perché molte volte il settore agricolo, nessuno pensa che dietro a tanto lavoro ci sia la donna che non solo porta avanti la famiglia, ma ha anche un ruolo importante nella gestione dell'azienda stessa. Certo, e lo ripeto, gestione, ma anche intuizioni, anche creatività, competenze, insomma tutti gli ingredienti che tu hai ben miscelato insieme. Complimenti a Lisa Paganelli, complimenti. Grazie. Ancora. Ciao. Grazie, buon sabato. Ciao a tutti. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua, in diretta, con l'altra Europa. Europost-it. Young Europe You, l'evento annuale dell'ANG. Attenzione, giovani appassionati d'Europa. Il 20 e il 21 ottobre a Roma torna Young Europe You, il grande evento annuale organizzato da Agenzia Giovani e interamente dedicato alle nuove generazioni e alla valorizzazione del loro talento nella dimensione europea. Gli appuntamenti in programma sono tantissimi e prevedono la partecipazione di ospiti prestigiosi che si interrogheranno sulla tematica del talento declinata in tutte le sue sfumature, oltre che su altre importanti questioni europee come Erasmus, opportunità di studio e scambio e corrette modalità di inclusione, integrazione, partecipazione e promozione del talento giovanile in Europa. L'ingresso ai talk è aperto al pubblico. Per conoscere tutti gli ospiti e le iniziative in programma, visitate il sito agenziagiovani.it. L'altra Europa. This is your traveling song. And I hope it sees you well through train rides and hotels. This is your traveling song, and on the window of the train, with your finger write my name. Well, I could sell my watch and buy a ticket, but my dear, I feel I wouldn't be. So this is your traveling song, my love. I hope you find everything you need. 1987, un anno importante, l'anno in cui nasce Erasmus. 2017, il prossimo anno, quindi si festeggerà questo compleanno, come già abbiamo anticipato più volte, 30 anni di Erasmus, tante le iniziative già in cantiere, tra queste c'è una molto particolare che vi vogliamo assolutamente raccontare. Si va alla ricerca dei pionieri della mobilità europea, non solo Erasmus, ma anche Leonardo da Vinci, ma anche Gioventù Nazione, ma anche il servizio di volontariato europeo per i giovani, insomma tutto ciò che fa mobilità. Un'iniziativa di cui parliamo con Sara Pagliai, coordinatrice dell'agenzia Erasmus Plus Indire. Ciao Sara, ben ritrovata all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Sono tantissimi quelli che in questi 30 anni hanno fatto le valigie, li volete proprio censire tutti? Sì, sono moltissimi, sono 3 milioni gli studenti in Europa, siamo partiti con numeri molto piccoli, appunto bassi, da veri pionieri, ma Erasmus è stato, come tutti sappiamo, un programma veramente di successo, il volto bello di questa Europa, che ha cambiato la vita e ha aperto la mente a molti, a tanti giovani e a tanti che ormai sono cresciuti. Come tu dicevi, stiamo cercando adesso i pionieri, quelli che sono stati i primi a partire, e non solo nel 1987, quindi gli studenti universitari, ma anche poi successivamente, quando si sono aggiunti sulla scia del programma Erasmus altri programmi di successo, quali Comenius per la scuola, il vecchio programma Lingua che dava impulso all'apprendimento e all'insegnamento delle lingue straniere, il programma Leonardo da Vinci per la formazione professionale, Gioventù Nazione. Quindi cerchiamo coloro che hanno colto per primo questa opportunità. Vogliamo dare valore, valorizzare la loro storia, la vogliamo raccontare. E la racconteremo poi nei nostri eventi di celebrazione il prossimo anno, il 2017. Come ci si candida? Come si propone la propria storia? Semplicemente andando sul nostro sito erasmusplus.it e mandando una mail, riempiendo una scheda online e raccontandoci che cosa è successo di bello dopo questa grande opportunità di partecipazione in Europa. Erasmus. Sì, è il vero percorso di cittadinanza europea, e la Commissione ne vuole festeggiare 30 anni nel suo complesso, quindi guardando al passato ma immaginando ovviamente dei percorsi nuovi e sempre più forti per il futuro. Sai che non c'entra niente con tutto questo, quasi. Sì. Una ventina d'anni fa la RAI organizzava un concorso che si chiama I Giovani Incontrano l'Europa. Era la RAI, credo, in collaborazione con, non lo so. Io ho partecipato per 2 anni con la stessa poesia e ho vinto tutti e 2 gli anni. Non so se è una cosa che possa essere raccontata. Sì, ho partecipato. Raccontacela. ho mandato la stessa poesia, che non ricordo più, 2 volte, e ho vinto tutte e 2 le volte questo viaggio in Europa. Fantastico. Forse è il momento di confessare questa cosa. Benissimo, ecco perché c'è sempre un motivo e una ricaduta poi nella vita dopo questi percorsi europei. Erasmusplus.it, entro il 17 ottobre, ma avremo modo di raccontarle anche via radio queste storie, i pionieri della mobilità. Un grazie a Sara Pagliai, buon lavoro. Grazie ciao, a Sara. Voi tutti, grazie. Europost-it. Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Dal 19 al 27 novembre torna la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Il tema di quest'anno sarà la riduzione dell'impatto degli imballaggi tramite la diminuzione, il riuso e il corretto riciclo degli stessi. La settimana è un'iniziativa della Commissione europea e ha l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e i consumatori sulle strategie e le politiche di gestione dei rifiuti delineate dall'Unione europea. Tutte le pubbliche amministrazioni, associazioni, organizzazioni no profit, scuole, università, imprese, associazioni di categoria e cittadini sono invitati a partecipare e a proporre azioni volte a prevenire o ridurre i rifiuti a livello nazionale e locale. Ci si potrà iscrivere alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2016 fino al 4 novembre collegandosi al sito www.r.eu e registrando la propria azione. Settimana cultura dei rifiuti, ma anche settimana della lingua italiana nel mondo. Le due cose non sono assolutamente collegate, ci teniamo a sottolinearlo. Una settimana proprio di promozione di quello che è la nostra lingua, non solo per gli italiani che vivono all'estero, ma soprattutto per gli altri, per gli stranieri, per chi è interessato alla nostra cultura. E un programma ricchissimo, in questo programma spicca appunto il progetto I Poeti della Canzone Italiana, con noi oggi Michele Fenati che l'ha ideato. Michele, cosa porterete in giro per l'Europa? Beh, intanto porteremo tanta musica italiana, che questo è importante per l'Italia, secondo me, perché comunque si parla sempre poco di quanto in Europa la musica italiana è ancora amatissima. Ma soprattutto porteremo quegli anni, gli anni 70-80, che non sono poi entrati, cioè, o meglio, gli anni 70-80 dei cantautori italiani. Quindi la canzone d'autore, che non ha avuto così un exploit come altri generi italiani. E soprattutto li porteremo in una maniera particolarmente nuova, nel senso che io vengo dalla musica classica e ho studiato canto e violoncello, e quindi ho tradotto in chiave classica i brani dei cantautori, mm-hmm. i brani di Dalla, Battisti e De André. Ho scritto questo progetto dedicato ai poeti della canzone italiana, anche quelli che non sono così conosciuti all'estero, quindi ci sono anche dei nomi, naturalmente nomi famosissimi come Dalla, Battisti, De André, Cocciante, eccetera, ma anche nomi meno conosciuti. Andrete appunto a Breslavia, che è capitale europea della cultura 2016, siete stati scelti per rappresentare proprio l'Italia e la lingua italiana, poi Praga, poi Linz, poi ancora in Austria. Non portate solo canzoni, però portate anche un contesto, cioè raccontate il... Sì, perché il sottotitolo sarebbe La cultura italiana attraverso le canzoni dei cantautori. Quindi facciamo un pezzo di De André, Bocca di Rosa, che parla di Sant'Ilario Dente, di questa prostituta che arriva in questo paesino, e quindi raccontiamo tutta la storia. Poi ho dei pezzi di Giorgio Gaber, quindi Lo Shampoo, anche quello racconta un po' di quelle che sono le, come dire, le fissazioni delle volte degli italiani, preoccupati di cose che non importanti a volte. Pezzi che traducete anche, nel senso che voi li cantate ovviamente in noi italiano. Noi li cantiamo in italiano, anche perché abbiamo fatto già l'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto il concerto a Vienna, molta Austria e Germania, e quindi insomma diventa molto difficile per noi parlare. Quindi c'è generalmente un italiano sul posto, che qualche mese prima lanciamo con i network una richiesta, e generalmente c'è sempre un italiano che si propone per venire sul palco a tradurre le mie poche parole, insomma, che racconto tra un pezzo e l'altro. Siete già pronti con gli strumenti? Quale pezzo ci propone? Allora, prima abbiamo fatto ascoltare un pezzettino di Piazza Grande, quindi un pezzo di Lucio Dalla. In questo caso ho scelto un brano che è un poeta, secondo me, grandissimo, amato da tanti, ma da tantissimi ancora sconosciuto anche in Italia. Lui si chiama Piero Ciampi, era di Livorno, ed è una canzone malinconica che molti non conoscono, ma secondo me è di una poesia. Qui si parla dei poeti italiani, dei poeti della canzone italiana, di una poesia incredibile. Lui ha scritto questa canzone dedicata alla sua città Livorno, e si intitola proprio Livorno. Un pianto che si scioglie, la statua nella piazza, la vita che si sceglie, il sogno di una pazza, la sera è già calata, comincio a camminare, sperando di incontrare qualcuna come te. Triste, triste, è troppo triste questa sera. Questa sera, lunga sera. Ho trovato una nave che salpava e le ho chiesto dove andava. Nel porto delle illusioni mi disse quel capitano, terra a terra, forse sogno una chimera. Questa sera, eterna sera. Thank you. fatto una nave che salpava e le ho chiesto dove andava. Nel porto delle illusioni mi disse quel capitano: terra, terra, forse sogno una chimera. Questa sera eterna sera. Michele Fenati, voce e chitarra, Gabriele Zanchini, fisarmonica, Matteo Penazzi, violino, Antonio Cortesi, violoncello, i poeti della canzone italiana per la settimana della lingua italiana nel mondo 2016. Vi ricordo che è la 16ª edizione di questa manifestazione, dal 17 al 23 ottobre, interamente dedicata alla creatività italiana e ai suoi marchi, in particolare quest'anno ai settori anche della moda e del design. Esteri.it per tutte le informazioni. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. Digital Design Days 2016. Attenzione creativi e appassionati di digital design. Dal 27 al 29 ottobre a Milano ci saranno i Digital Design Days, 3 giorni di conferenze, workshop professionali, digital showcase, installazioni e numerose attività di networking. Si tratterà di un appuntamento imperdibile che vedrà la partecipazione dei migliori designer italiani e internazionali riuniti per celebrare la creatività nel design digitale. Durante i 3 giorni avranno luogo anche la prima edizione di Off Milano, la cerimonia di consegna del Digital Design Award e il panel gratuito Giovani Talenti, patrocinato dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Per conoscere tutti gli eventi in programma e prenotarvi, visitate il sito ddd.it. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog. Quel di Landon. Anche tu ami l'indagatore dell'incubo. Raccontaci perché con una mail a dylandog@radio24.it e potrai ricevere in regalo una copia di Dylan Dog Diary. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni sabato alle 15 su Radio 24. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia, Twitter e Facebook, i nostri social, radio24.it, il nostro sito da dove poter poi riascoltare o scaricare il podcast della puntata. Progetti europei, lo sapete, ci piace raccontarli, andiamo anche a caccia di quelli più curiosi, più particolari, quelli che caratterizzano questo strano rapporto virtuosissimo tra l'Europa e il territorio, l'Europa e la quotidianità, anche quando sembra una quotidianità curiosa, lontana, invece ti accorgi che progetti apparentemente astrusi poi invece hanno dei ritorni fondamentali per quella che è una società, sia dal punto di vista di chi ci abita, sia e soprattutto dal punto di vista dell'ambiente. E il prossimo progetto rientra proprio in questa categoria, si chiama Un cervo, due isole, un progetto finanziato dal Life Plus Nature. Ne parliamo con Francesco Riga, referente del progetto per ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Buongiorno Francesco, benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno. Quali sono queste due isole e perché il cervo? Ma queste due isole sono chiaramente la Sardegna e la Corsica. Il cervo perché il cervo presente originariamente in Sardegna è diverso sia geneticamente sia morfologicamente dal cervo europeo che troviamo in tutto il resto d'Europa e in Italia. E tant'è che la direttiva Habitat, che è appunto una direttiva europea che prevede per la conservazione della natura, lo considera proprio una sottospecie di interesse conservazionistico. E proprio per questo c'è questo strumento appunto di finanziamento che è l'AIFE, che prevede che possano essere fatti progetti per la sua conservazione. È a rischio estinzione questo cervo? O... È stato a lungo anche una delle bandiere del mondo conservazionistico. Negli anni 70 erano ridotti a poche decine di individui in poche aree della Sardegna, tant'è che si è mosso anche il WWF acquistando una di queste aree dove era presente proprio per impedire il discostamento e la caccia in queste aree. Perché ha ridotto proprio a pochi esemplari ormai, e questo ha dovuto sia a bracconaggio intenso ma soprattutto a modificazioni ambientali che potevano derivare per esempio dagli incendi pastorali, cioè fatti incendi per poter poi lasciare pascolare il bestiame domestico. Francesco, come si lavora? Quali sono le azioni messe in atto? I progetti LIFE di solito prevedono tutta una serie di azioni. Chiaramente la più importante è quella di consentire la conservazione di questi animali, quindi il nostro progetto provvede di creare nuove popolazioni in Sardegna di questa sottospecie di cervo, dove l'ambiente ovviamente è idoneo. E per quanto riguarda invece la Corsica, prevediamo di mettere degli animali nelle aree dove è già presente per aumentare la variabilità genetica e per dare quindi più chance di sopravvivenza a queste popolazioni. Certo. Gli animali verranno presi da un'area dove ci sono molti cervi, quindi ormai nella provincia del Medio Campidano, che fra l'altro è uno dei partner del progetto, e verranno trasferiti in queste altre tre nuove aree della Sardegna e della Corsica. Gli altri partner, oltre a ISPRA, sono chiaramente la provincia del Medio Campidano, la provincia dell'Oltiazza, il Parco Regionale Corso, che ovviamente gestisce le operazioni in Corsica, e l'Ente Foreste Sardegna, che gestisce gran parte dei territori dove è presente il cervo in Sardegna, che ora si chiama appunto Foresta. Francesco, per quanto riguarda... Dimmi. No, chiedo a... Immagino, no, anche le critiche che saranno arrivate, del tipo perché spendere soldi per un'operazione del genere, a chi serve? Qual è la vostra risposta? Ma questa è una critica che si fa al mondo ambientalista in genere e al mondo della ricerca in genere. Qualche anno fa, per esempio, hanno dato dei finanziamenti per la ricerca sui pipistrelli ed è stato indicato come un esempio di mala gestione. In realtà tutto quello che riusciamo a fare per la conservazione dell'ambiente è sicuramente due valori. Uno è quello generale, per la conservazione di una semplice specie, come una singola specie come potrebbe essere il cervo sardo, ma soprattutto per il mantenimento della biodiversità globale a livello italiano e a livello mondiale. Noi non sappiamo effettivamente qual è il limite al di sotto del quale ci saranno delle catastrofi. Magari non sappiamo, cioè la scomparsa del cervo sardo potrebbe non essere un evento catastrofico. Però messo insieme a tanti altri fattori di decremento della biodiversità sicuramente potrebbe portare a una catastrofe soprattutto imprevedibile. Quindi chiaramente anche i singoli progetti per le singole specie sono molto importanti per il mantenimento dell'equilibrio naturale a livello globale, anche se noi non ce ne rendiamo effettivamente conto osservando i singoli progetti uno per uno. Certo. One Year Two Islands.eu, questo è il sito che racconta il progetto. Un grazie a Francesco Riga, referente del progetto per ISPRA. Buon lavoro. Grazie, ciao. E dalla biodiversità ambientale torniamo alla biodiversità musicale con il progetto di Michele Fenati e i poeti italiani in Europa con questo tour in partenza il 19 mercoledì, quindi mercoledì adesso prossimo, sono sì. Sfasate con le date, mercoledì a Breslavia, il primo appuntamento anche con pezzi originali. Sì, diciamo che il 99% sono pezzi di grandi poeti, cantautori famosi in Italia o non famosi in Italia, ma sicuramente poco conosciuti all'estero, tranne qualche brano di Paolo Conte che abbiamo inserito, insomma, è uno dei cantautori più amati in Europa e nel mondo, quindi. Però chiudo sempre anche i prossimi concerti, naturalmente anche quelli che abbiamo già fatto, con una canzone che ho scritto qualche anno fa. È una canzone molto facile per gli stranieri, perché si intitola Mille volte buonanotte. Una cosa che ho notato quando giro l'Europa, soprattutto Austria e Germania, è che quando vado negli autogrill o nei distributori cercano sempre di parlare in italiano, quindi arrivederci, ciao. E quindi questa canzone, visto che la cantichiavano alla fine del concerto, e quindi ho detto, ho fatto bene a inserirla come saluto agli europei, proprio agli austriaci, tedeschi, i prossimi saranno quelli della Repubblica Ceca e della Polonia, che ci verranno ad ascoltare la prossima settimana. Andiamo ad ascoltarla insieme. Questo è il divano dove abbiamo fatto l'amore. Ti ricordi quella sera a casa mia? Dopo due ore di televisione, che noia, che guerra dentro. Indeciso sul provarci o meno. Poi un tuo sorriso acceso all'improvviso mi ha dato il là e ha aperto mille porte. E in un momento ogni sentimento che da tanto troppo tempo covava dentro è uscito fuori e ha preso il sopravvento. Mille volte buonanotte in questa notte, mille volte buonanotte in questa notte, mille volte buonanotte in questa notte. E se accendi la radio proprio adesso, vorrei vedere l'espressione, quel tuo sorriso che partiva all'improvviso. Chissà se parte adesso, se hai capito che questo pezzo è per te, questo pezzo è per te. Mille volte buonanotte. Questo è il divano dove abbiamo fatto l'amore, senza promesse per domani. Domani, se il fuoco è ancora acceso, bruceremo insieme. Ma se sarà già spento, non voglio rimanerci male. Le cose belle so che duran poco, rimane solo il gioco dell'amore e il sesso che lega e sleghi i sentimenti. È il primo tempo di una partita mai finita, sospesa sull'1-1 e forse mai giocata veramente. Mille volte buonanotte in questa notte, mille volte buonanotte in questa notte, mille volte buonanotte in questa notte. E stasera vorrei mandarti un bacio, e non è il bacio di un Giuda pentito, nemmeno di un Gesù tradito, ma solo il bacio di un uomo che ha capito, perché ti voglio bene, ti voglio ancora troppo bene. Mille volte buonanotte. Michelefenati.it live qui all'Altra Europa. Ci fermiamo il traffico, poi ancora Europa. L'Altra Europa. Robot, chiamiamolo così, si sta tenendo a Roma il Maker Fair, questa manifestazione, questa tre giorni direi interamente dedicata al mondo dei maker, che è il mondo della robotica, che è il mondo delle fai da te digitale, un programma ricchissimo. È ben presente anche la Commissione Europea con EU Factor e tanti progetti finanziati proprio con i fondi europei, tra i quali insomma ne abbiamo scovato uno particolarissimo, RoboHesle. RoboHesle.eu è l'indirizzo. La robotica per contrastare l'abbandono scolastico, ne parliamo con il curatore Emanuele Micheli. Ciao Emanuele, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti, grazie. Sei lì nel bel mezzo del delirio? Assolutamente, se sentite il rumore c'è il delirio della Maker Faire, ma è un delirio fatto di gioia, di tante persone interessate all'innovazione tecnologica, a come usarla per fare imprenditorialità e riuscire a cambiare le cose che ci circondano. Ricordiamo che Scuola di Robotica è un'associazione no profit fondata nel 2000 per iniziativa di un gruppo di robotici e studiosi di scienze umane, proprio il mix tra queste due cose che sembrano apparentemente molto distanti, invece dall'unione nascono cose fantastiche come questo progetto europeo. Di cosa si tratta? Allora, la Commissione europea ha ben chiaro il problema dell'abbandono scolastico. L'Italia ha un abbandono scolastico sopra il 17%. E questo significa che tantissimi studenti nelle scuole secondarie e secondo grado abbandonano la scuola per noia, per disinteresse, perché non sono coinvolti, e queste persone rischiano poi di ovviamente rimanere in un limbo sociale, occupazionale molto pericoloso, e quindi si stanno promuovendo iniziative di diverso genere per riuscire a coinvolgere questi ragazzi a rimanere nel mondo della scuola. Oggi, facendo il corso relativo a questo progetto, c'erano insegnanti di Napoli, della Sicilia, che mi raccontavano dispersioni scolastiche del 25%, del 30%, cioè 3 studenti ogni 10 abbandonano la scuola. Noi gli facciamo costruire i robot al pomeriggio, abbiamo formato degli insegnanti al liceo Fermi di Genova, insieme all'Università di Padova, insieme ai partner della Grecia e della Lettonia, per riuscire a far sì che costruendo robot i ragazzi possano stare meglio a scuola, possano vedere delle conseguenze reali su quello che fanno. I risultati? I risultati sono molto interessanti, siamo a un anno e mezzo, siamo a metà progetto, e i ragazzi che hanno partecipato nelle varie scuole, nelle varie nazioni, stanno rimanendo insieme a noi nella scuola, fanno gruppo, lavorano insieme, stanno acquisendo delle competenze professionali che molto spesso la scuola si dimentica di sviluppare, e agendo su queste capacità sia di programmazione che di costruzione, ma anche capacità relazionali, stanno meglio a scuola. E quindi pensiamo che la robotica possa essere uno strumento reale che fa capire a loro che quello che fanno ha delle conseguenze, perché quando costruisci un robot lo vedi agire. Se il robot non funziona, non è colpa di chissà quali congiunzioni astrali negative, ma sei tu il responsabile di quello che hai fatto. E quando diamo la responsabilità di quello che fanno ai giovani, i giovani rispondono, rimangono sul pezzo e cercano di dare dei risultati positivi. Insomma, credo che sia anche la dimostrazione che insomma non è sufficiente mettere un tablet in classe, mettere la LIM, cioè serve altro, va umanizzata questa tecnologia, va motivata, umanizzata e motivata, credo che sia questa quello che Guarda, poi voi fate. Hai sottolineato proprio il cuore di quello che facciamo. La tecnologia da sola non serve a niente, non è mai servita a nulla. Sono le persone che utilizzano questa tecnologia che danno il senso a questi strumenti. Puoi avere la tecnologia più costosa, più innovativa del mondo e non farne niente di importante. Se invece i docenti sono formati per dare umanità e un utilizzo reale a questa tecnologia, riusciamo a raggiungere dei risultati straordinari, perché i ragazzi hanno bisogno di vivere in un mondo reale fatto di innovazione, con strumenti della vita di tutti i giorni. RoboHesle.eu, scuoladirobotica.it per tutte le informazioni. Un grazie a Emanuele Micheli, buon lavoro, ciao Emanuele. Ciao, grazie a tutti, grazie. E questo grazie lo giro anche a tutta la squadra dell'Altra Europa, un grazie a Valeria Bernardi oggi alla parte tecnica, Claudia Scatone in assistenza, Silvia Righini e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata, radio24.it, il nostro sito da dove poter riascoltare il podcast, oppure la nostra mail, altraeuropa@radio24.it, mail per esempio che ha utilizzato Michele Fenati per raccontarci il suo progetto, e oggi abbiamo avuto il piacere di poterlo ospitare qua in studio con noi insieme a tutta la squadra, Gabriele Zanchini, Matteo Penazzi, Antonio Cortesi. Michele, con cosa chiudiamo? Chiudiamo con un grande poeta che è Mogol, uno dei brani che ha scritto per Lucio Battisti. Mi piace sempre ricordare che senza Battisti probabilmente Mogol non sarebbe diventato il grande poeta che è, Il mio canto libero. E questo è il nostro contributo alla settimana della lingua italiana nel mondo. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. e la verità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e l'immensità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine. Giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo, lascia il quadro immacolato e salta un vento tiepido d'amore, di vero amore. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'Altra Europa.